Mauri mi passa il porro mentre Drew stappa due bionde. Ronnie è perso, stanno arrivando i Smith con dietro Crazy Death, Wine Party, no shit. Questo è il suono sul gis che spacca e rimbomba. Sotterranei sulla cassa, la tua crew si sfonda. Senti le nostre voci pure sottoterra. Brucio la gola secca, passami un'altra birra. Dalla vita con furore, rume, coca e vaneggio. Epix e rap, urto gang, giro il meglio del peggio. All'assalto del bar, sbianchi senza candeggio. Fuori in 60 secchi, son secco, boccheggio. Ondeggio sulla pista tipo nave alla deriva. La mia comitiva crema, merda radioattiva. Al bancone i più galanti se la barista con birra. Mezza birra la mia gang e ad ognuno che arriva. Forgiato nell'86, sono tre anni allo sbando. Meno di due, sto su un bike, un altro ed esco dal tuo impianto. Se fotto la tua tipa, amico, non sei proprio un king. E l'urto click, fan che spanta pure lontano da qui. Chiedi a Pix e like, si gira fisso e più di un'elica. Che se cambio metrica, tu resti agli highlights. E come fare un torto ancora, aspettati in vendetta. Quello che è sicuro è che non mollo senza la mia offerta. Primo spliff a 13 anni, ne sono passati 8. Io ne do altri 3 di tempo all'urto click per fare il botto. Sto cotto, a sta barista tocca dirglielo. A quella bitch della tua donna tocca dirglielo. Rolle passa la mia crew a polmoni neri. Più grisa che carabinieri, più svuoti i tuoi bicchieri. Nel locale riconosci, ci vergognati gay. Ci ho preso uno specchio per mostrarti quanto scemo sei.